si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Staremo insieme fino alle 10 tra poco, un'occhiata ai giornali di oggi, poi insomma apriremo il numero verde dopo il giornale delle 8, sentiremo i vostri commenti, cominceremo con gli approfondimenti, le buone notizie. Quest'oggi partiamo insomma dai nuovi allarmi per lo smog nelle città italiane, con Roma e Milano che sforano i limiti, ormai già nei primi tre mesi praticamente sforati tutti i limiti, molte città che stanno procedendo in ordine sparso, targhe alterne, domeniche ecologiche. Andremo in una città dove il sindaco, anziché bloccare le auto, ha chiesto ai passeggini di starsene a casa, le mamme coi passeggini, cioè invece di bloccare le auto ad Acerra hanno bloccato i passeggini. Cercheremo di capire se siamo nel campo delle ordinanze creative dei sindaci oppure se invece è una nuova frontiera nei controlli, nelle misure per la salute, per la sicurezza dei cittadini nelle nostre città. Poi, ve lo dico subito, domani, sempre su questo argomento, sentiremo il vice ministro dei trasporti Nencini e gli chiederemo come e perché, nell'edizione di domani, la prima intervista alle 9 di Si può fare, come e perché è sparita dall'agenda politica, dall'orizzonte, la riforma del codice della strada, che dovrebbe dare incentivi a pedoni, ciclisti, pendolari, quindi quelli che i più deboli nel traffico stradale, ma anche quelli che inquinano meno. Una riforma già passata alla Camera, ma che è sparita completamente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Questo domani. Invece oggi partiremo da Acerra con questa ordinanza appunto del sindaco che ha bloccato, anziché le auto, i passeggini che hanno una distanza di meno di 50 centimetri da terra rispetto all'altezza della testa del bambino. Questo accade ad Acerra. Noi invece adesso andiamo sui giornali. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, che cosa c'è sui giornali di oggi? Naturalmente ampio spazio alla soluzione ad Amanda Raffaele per l'omicidio di Meredith, il ribaltamento della sentenza in Cassazione, poi l'Airbus, l'incidente sulle Alpi francesi e tutti i retroscena sulla vita del copilota Lubitz, ma anche il via libera del Consiglio dei Ministri del Governo ad una riforma della RAI. Cominciamo con il Corriere della Sera, il titolo dedicato ad Amanda Raffaele: assolti a sorpresa, lei felice, chiederò il risarcimento, tra l'altro. Poi invece, per quanto riguarda la vicenda del pilota Lubitz, aveva mentito per poter volare, ormai sono insomma ore in cui abbiamo sentito di tutto. Nella casa del copilota sono stati trovati certificati medici strappati e lui non doveva essere sull'aereo. Terzo titolo, dicevamo, sulla RAI, riforma del governo, arriva il manager con pieni poteri. Anche questo vedremo tra poco, però prima cominciamo subito a capire qualcosa di più sulla vicenda che ha investito insomma la Lufthansa e la sua compagnia aerea low cost, la Germanwings, su questa presunta depressione, malattia che avrebbe dovuto spingere la compagnia ad essere più prudente sull'impiego di questo pilota. L'altro ieri, scrive il Corriere, la Lufthansa aveva sostenuto che Andreas Lubitz era al 100% abile al volo. Si deve supporre che la compagnia aerea tedesca non sapesse che il copilota di Germanwings andava dal medico, il quale gli aveva scritto su un certificato di malattia che non poteva volare. Si immagina che non fosse al corrente del fatto che questi documenti finivano nel cestino stracciati. Che il 27enne potesse avere problemi di esaurimento nervoso o di depressione, però la compagnia avrebbe dovuto temerlo, quantomeno, scrive il Corriere. In passato, infatti, l'uomo aveva interrotto per mesi l'addestramento proprio per quella ragione. Era sì stato riammesso ai corsi di formazione dopo alcuni mesi. Fatto sta che l'aerolinea ora dovrà stabilire che cosa non ha funzionato. Che cosa non ha funzionato? ci sono pareri di psichiatri da tutte le parti, su tutti i giornali. Nella mente di Lubitz, chi è in burnout si sente inefficace sul lavoro e distaccato. Lo psichiatra però dice depressione, la sua sembrava più lucida follia. Il burnout di cui si parla in queste ore a proposito di Lubitz, perché poi c'è anche una clinica di Francoforte, credo, che ha smentito di aver avuto in cura Lubitz proprio per depressione. Il burnout non è una patologia compresa nel manuale di riferimento internazionale della psichiatria, ma è una condizione nella quale non si è più capaci di rispondere allo stress in modo adeguato. Tre sono i segnali: l'esaurimento, sentirsi svuotati, l'inefficacia, sentirsi inadeguati, e il cinismo, provare distacco rispetto agli effetti delle proprie azioni. Sempre su questo tema, le nuove regole però dell'Unione Europea, che stanno, diciamo, c'è già una raccomandazione temporanea della EASA, l'Autorità Europea per la Sicurezza in Volo, che ha raccomandato alle compagnie aeree di comportarsi in modo che in cabina di pilotaggio sia sempre garantita la presenza di due persone almeno. Una regola che è già in vigore negli Stati Uniti dal 2001, che però fino ad ora non era obbligatoria in Europa e in Canada. L'avevano anticipata alcune compagnie aeree, tra cui Alitalia, EasyJet e la israeliana Archia, perché quello che è successo, insomma, lo avete probabilmente già sentito e capito, che il portellone per entrare nella cabina di pilotaggio dall'11 settembre 2011 era blindato, c'è un codice per sbloccarlo in possesso dell'equipaggio, ma dall'interno può essere impedito l'ingresso per un periodo di tempo tra 5 e 10 minuti. Adesso appunto l'obbligo è, sarà anche per l'Europa, quando uno dei due piloti si allontana, almeno un assistente di volo dovrà prendere il posto accanto all'altro pilota. Però c'è il leader del sindacato dei piloti tedeschi che mette in guardia, dice: attenzione, questa cosa non serve quasi a niente, la sicurezza totale non esiste. E difende, tra l'altro, sul tema della privacy, il fatto che il medico che aveva stabilito questa depressione per Lubitz è giusto, secondo il sindacato dei piloti, secondo questo leader del sindacato dei piloti tedeschi, che questa cosa non venisse comunicata all'azienda per il tema della privacy. Questa intervista la leggiamo tra un attimo, ci fermiamo prima per una pausa sul traffico. Tra un attimo. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo con Si può fare, di nuovo sui giornali di oggi. Abbiamo anticipato l'intervista a Jörg Handwerk, il leader del sindacato dei piloti tedeschi. La nostra selezione è molto severa, ma la sicurezza totale non esiste. Da noi, dice, e in molti altri paesi democratici, vige ed è severamente applicato il dovere del silenzio del medico sullo stato dei suoi pazienti. Cioè, i medici non possono fornire a nessun altro informazioni sulla salute del paziente senza il suo consenso. Ma non le sembra questo un ostacolo grave alla sicurezza del volo? Non vedo come sia possibile modificare la situazione del dovere del silenzio dei medici. Quindi questa cosa non si può toccare, secondo il leader del sindacato dei piloti tedeschi. Altro punto: io non voglio ferire nessuno, ma in oltre 100 anni di aviazione civile, su 2800 incidenti, solo 2 o 3 sono stati causati dalla volontà suicidia. Eppure, insomma, questa volta sembra sia andata proprio così. Quindi potrebbe essere un segnale. E invece sentiamo: non le pare che la Lufthansa e le compagnie dovrebbero imporre ai piloti controlli più severi e frequenti? Purtroppo una prevenzione migliore di quella esistente è impossibile, cioè non si può far niente, secondo questo signore qua. I controlli medici delle compagnie e i check-up vengono effettuati anche per verificare se i piloti sono affetti da malattie psichiche, però le depressioni sono tanto diffuse quanto facilmente occultabili da chi ne soffre. E poi ancora: è facile decidere sull'obbligo che ci siano sempre due persone in cabina di pilotaggio, ma la decisione, pur rassicurando la gente, non porta realmente più sicurezza. Che fare quando uno dei due piloti deve andare al bagno? Una hostess o uno steward si siedono al suo posto, ma un assistente di volo non sa né pilotare né ha prestanza fisica e training tali da impedire improvvisi raptus o volontà suicidi. Sarà, però, ecco, forse qualcosa avrebbe potuto fare qualcuno stando in cabina insieme al copilota. forse per esempio aprire il portellone e far entrare un altro pilota. Quindi questa intervista mi sembra totalmente assurda da parte di questo leader del sindacato dei piloti tedeschi. Facciamo un passaggio sulla RAI prima di andare ad Amanda. Rai, consiglio a 7, e arriva il super manager. La riforma approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, un disegno di legge, prevede appunto un Consiglio dei Ministri con 7 membri, 2 votati dalla Camera, 2 dal Senato, 1 dai dipendenti Rai e 2 designati dal Governo. Il super amministratore delegato, secondo Renzi, dovrà avere poteri più forti del direttore generale di adesso, quindi evitare la melina delle decisioni e snellire così il funzionamento dell'azienda. Una riforma però che lascia perplessi, perché non sembra intaccare molto il rapporto malato tra la RAI e la politica. Se ne accorge anche il presidente della commissione di vigilanza FICO del Movimento 5 Stelle, che naturalmente attacca in un'intervista sul Corriere e dice: solo una Gasparri 2.0, faremo opposizione, altro che dialogo. Intanto c'è il tema che tutti i consiglieri potrebbero finire in mano al governo, anche quelli votati dalla Camera e dal Senato, perché, dice FICO, spiega FICO, non essendo prevista una maggioranza qualificata, i partiti che sostengono il governo possono fare l'amplen e prendere tutti i consiglieri attraverso un meccanismo di voto alla Camera e al Senato, e questo farebbe sì che il governo abbia il controllo pieno del CDA. Renzi però ribadisce che vuole liberare la RAI dai partiti. Risponde FICO: sono slogan, è un'affermazione del tutto falsa, non solo i partiti continuano ad avere il controllo, ma ce l'hanno i partiti di governo e l'esecutivo. Noi proponiamo invece una maggioranza qualificata dei 2/3 per l'elezione dei consiglieri di amministrazione, non solo requisiti in positivo e in negativo. Requisiti positivi, secondo il Movimento 5 Stelle, devono essere competenze specifiche nel campo della televisione, e invece requisiti negativi, dice FICO, chi ha ricoperto il ruolo di ministro, parlamentare o è stato nella dirigenza dei partiti negli ultimi 7 anni non può far parte del CDA, cioè allontanare partiti il più possibile dal CDA della RAI. Sulla assoluzione di Amanda e Raffaele per l'omicidio di Meredith, c'è un'interessante intervista sul Messaggero ad un avvocato americano, Alan Dershowitz, principe del foro, ex consulente della difesa di O.J. Simpson, difensore di Mike Tyson, che dice in sostanza: se Amanda fosse stata giudicata in America, probabilmente non sarebbe stata assolta, perché le basi probatorie, spiega questo avvocato, avevano posto in bilico l'esito della causa, ma sicuramente il sistema giudiziario americano non le avrebbe offerto tanti casi di riesame come è accaduto in Italia. Già, perché in effetti questa occasione di riesame ci sono state. Vogliamo ricordare le tappe? Questa vicenda, la morte di Meredith nel 2007, le prime condanne per Rudy Ghedè, ma anche per Amanda e Raffaele, 26 anni lui, 25 lei, arrivano nel 2009. Il primo appello riduce le condanne a Rudy Ghedè e assolve Amanda e Raffaele, sentenza annullata in Cassazione, secondo grado da rifare. Secondo grado rifatto con condanna nel 2014 a 28 anni, lo sappiamo, per lei, 25 per lui. Si torna in Cassazione a targhe alterne e c'è l'assoluzione. Quindi, tornando al principe del foro americano Dershowitz, dice: con quelle prove in America la condanna sarebbe stata certa, ma soprattutto dice che la sentenza è stata un po' una questione diplomatica tra l'Italia e l'America, tema che ritorna perché insomma l'Italia sarebbe stata disponibile a mettere a rischio l'amministrazione americana ad un dibattito lacerante, perché chiedendo l'estradizione di Amanda, dice questo Dershowitz, la Casa Bianca avrebbe poi subito delle pressioni da parte dell'opinione pubblica contraria a rispedire Amanda in Italia in caso di condanna. Insomma, un'intervista interessante da parte di questo principe del foro americano, che mette in evidenza un punto di vista diverso sulla soluzione di Amanda e Raffaele, tutta in chiave americana, appunto. 7:54 minuti, 30 secondi, ci fermiamo qua con la rassegna stampa. Ci ritroviamo con Si può fare invece dopo il giornale radio. A tra poco. Si può fare, Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Eccoci qua, 800 24 00 24. Vi aspettiamo fin da subito se volete prenotare il vostro intervento per stare con noi. Sì, signori. Per commentare quello che avete sentito fino adesso, la rassegna stampa, per raccontarci le vostre storie di questa settimana, le vostre buone notizie. Vi aspettiamo sempre, naturalmente. Poi per giocare, adesso dobbiamo spiegarvi il gioco. Vi raccontiamo subito anche come, va? Esatto. Allora, cari ascoltatori, il numero uno della Apple, Tim Cook, ha detto che insomma devolverà in beneficenza, beato lui, tutto quello che ha guadagnato in questi anni. Uno degli uomini più ricchi del pianeta sicuramente, insieme a tanti altri capitani d'industria, ma insomma la Apple è la, l'azienda che sta andando alla grande per eccellenza. Allora noi vi chiediamo, insomma, diamogli dei consigli su come fare questa beneficenza, perché di modi per spendere un po' di soldi lì, noi ne conosciamo tantissimi, e sì, lui ne ha tantissimi peraltro. Eh sì, quindi cioè, voglio dire, ne ha bisogno secondo me di consigli. Ma sì, ma anche cose, cioè se ci vuol dare una mano anche a noi per ristrutturare casa, il mutuo di casa, quello non vale. Lui ha detto che vuole garantire lo studio dei suoi nipoti, credo che non abbia figli. Ha un nipote, mi sembra, sì, piccolino, non esatto, so, e poi per il resto, cioè, abbiamo quel che ci serve in sostanza, il resto lo possiamo dare tranquillamente in beneficenza, non so, ricerca sul cancro, la fame nel mondo, scoprire nuove forme di energie alternative sostenibili, quindi la ricerca, non lo so, dateci qualche suggerimento, aiutiamo Tim Cook a spendere questi soldi, anche perché ho letto che il suo patrimonio mi sembra che sia oltre i 700 milioni di dollari, quindi per uno all'inizio legge dice vabbè, ma quanti soldi avrà, magari un manager normale, non è che invece è tanta roba, ne ha parecchi perché ha le azioni della Apple, giustamente, eh sì, quindi negli anni diciamo è andata sempre meglio. E anche oggi mettiamo in palio alla risposta che più ci convincerà la nostra domanda un premio messo a disposizione dall'Associazione dei Comuni Virtuosi. Anche questa settimana siamo a Povegliano Veronese, Comune Virtuose, pannelli fotovoltaici sulle scuole medie, risparmio nell'illuminazione con luci a LED, piste ciclabili, due nuovi parchi negli ultimi anni, anche la tassa dei rifiuti a consumo. Queste sono le pratiche virtuose di Povegliano Veronese, che mette a disposizione una cassetta di frutta, verdura biologica di stagione. Scusate. Quindi la stagione è buona. La stagione è buona, oggi Milano Monterosa sole, tra l'altro. E quindi questo è il premio virtuoso di oggi, 800 24 00 24, consigli per il numero uno della Apple per come dare in beneficenza i suoi soldi, emolumenti. Invece a me ha fatto ridere ridere per non disperarsi, una notizia, nel senso che ci lamentiamo spesso della arretratezza del nostro paese per ciò che concerne i diritti civili per le minoranze o le persone omosessuali, ne parliamo spessissimo in radio qui a Si Può Fare, però ci sono paesi che di solito prendiamo come esempio e invece non sempre vanno tanto meglio le cose. Parlo dell'Indiana, dove il governatore dello Stato americano ha firmato il Religious Freedom Restoration Act, ovvero una legge per cui i gay potranno essere discriminati appunto per legge. Nel senso che con la difesa, diciamo, del credo religioso, uno può dire, per esempio un barista può dire, io non ti servo un caffè perché tu sei gay e questa cosa va contro il mio credo religioso. È talmente oltre che fa fin ridere, devo dire. E soprattutto non vorrei essere nell'Indiana in questo momento, però, perché non mi piacerebbe. Non vorrei molto, nemmeno io, ma soprattutto è interessante perché un po' negli Stati Uniti ci sono credi religiosi assurdi, quindi non so, ci sono anche gli adoratori della zucchina, quindi che potranno, perché vale per tutti, non è che solamente per i gay questa legge, potranno discriminare quelli che invece mangiano l'insalata belga. E poi vorrei dire che è bello in un posto, nel senso che io lo approvo, però a questo punto dovete anche tipo spegnere i vostri computer, perché appunto l'inventore del computer è Alan Turing, era gay e va contro le vostre credenze religiose, e quindi qui in un attimo si è al Medioevo. In più forse dovete anche buttare i vostri iPhone, perché il Tim Cook di cui abbiamo appena parlato, appunto per riagganciarmi, è notoriamente gay e dice sono orgoglioso di essere gay, quindi si va indietro. Oggi io dico che la sentenza di assoluzione di Raffaele Amanda è talmente imminente, insomma, che volevi tornare su delle storie eterosessuali, giustamente, sì, esatto, e quello è successo. succede nelle storie eterosessuali, no, appunto. Accettiamo lo sfogatoio anche su questo. Se volete dire la vostra su questa vicenda giudiziaria, una delle tante, forse una proprio paradigmatica di questi anni, ci potete chiamare anche su questo 800 24 00 24. Vi aspettiamo volentieri. Tra poco, cioè dopo le 9, avremo anche il presidente della Toscana Rossi per valutare con lui come è andata a finire la questione del piano paesaggistico della Toscana, che doveva essere un esempio, diciamo, di come dire, di salvaguardia del paesaggio, ma anche nel rispetto delle attività produttive sulla costa e per le cave di marmo, le famose cave di marmo di Carrara. Ieri l'hanno approvato, vedremo quale equilibrio è stato raggiunto. Tra poco. 800 24 00 24, vai. Un tempo mi dice mia nonna, non c'erano tanti motori, nessuno faceva colonna, le strade filavano fiori, si andava in città tutti a piedi, qualcuno con la bicicletta, lo so forse tu non ci credi, ma nessuno viveva in fretta. Questo è il sound della città pulita, dove il sole ci scalda la vita, resta sempre la solita domanda, decide bene o no chi comanda. Adesso le povere aiole fioriscono di motorini, adesso le bici e le suole le bucano solo i bambini. Le bici non avevano motori e non c'erano nemmeno gli aeroplani, le TV non avevano colori, ma i bimbi sapevano giocare con le mani. Questo è il sound della città pulita, dove il sole ci scalda la vita, resta sempre la solita domanda, decide bene o no chi comanda. Questo è il sound. Bobo Sin della città pulita, tutti vorremmo vivere in una città possibilmente abbastanza pulita, dall'aria pulita. Invece sono tornate le ordinanze antismog, sono tornati i limiti delle polveri sottili a essere sforati. Roma, Milano, ci sono targhe alterne a Perugia, iniziative a Pavia, anche in altre città italiane. Noi siamo ad Acerra, io saluto il sindaco Raffaele Lettieri, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Anche qua sforamenti delle polveri sottili, anche qua ordinanze, però in questo caso devo dire che so che lei ci tiene a dire, guardate che questa ordinanza che riguarda anche gli anziani e i passeggini si inserisce in una serie di iniziative, però ammetterà che è un po' fa un po' strano sentir dire che non ci sono limiti per le auto possono continuare a circolare, però i passeggini e gli anziani devono starsene a casa. Quindi ci spieghi come mai, sindaco, questa iniziativa che, ripeto, lei ci tiene a dire che si inserisce in una serie di cose che avete fatto, tipo spegnere i termosifoni, cioè i riscaldamenti, gli edifici pubblici in un certo modo, eccetera, eccetera, però di fatto le auto circolano e i bambini no. E i bambini no. Devo dire che non è proprio così. Dobbiamo dire che sono due ordinanze, la numero 6 e la numero 7. La numero 6, che praticamente è fino al 31 marzo e di conseguenza praticamente per un periodo più lungo, che si compone di due parti, una parte di divieti e una parte di inviti. La parte di divieti riguarda praticamente la combustione all'esterno sia in ambito agricolo che di cantiere, perché dobbiamo poter vigilare sui roghi che dalle nostre parti, anche se sono diminuiti, ci sono ancora. È vietato climatizzare gli spazi delle abitazioni, è vietato mantenere accesi i motori fermi, e poi sono degli inviti. Gli inviti che riguardano praticamente le aziende di trasporto pubblico locale dovranno utilizzare i mezzi ad emissione zero, dovranno praticamente, abbiamo altre misure, quali per esempio l'invito alla popolazione a controllare che la legna che si compra e il pellet che si compra sia a norma, sì. Altri inviti come per esempio tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 cm dal suolo, dove si propaga praticamente l'inquinamento e lo smog atmosferico. Questo con l'ordinanza numero 6. Ma scusi, le volevo chiedere solo una cosa, ma gli inviti funzionano? Perché sentire che il pellet deve essere a norma ed è un invito, forse dovrebbe essere un obbligo. No, allora, è un obbligo venderlo e acquistarlo così, è un invito a controllare. I soggetti, quando lo vanno a controllare, l'invito a chiedere la certificazione. È un obbligo, logicamente, venderlo e acquistarlo così, ma ti invito a controllare. Ecco, invece, per quanto riguarda l'invito agli anziani e ai bambini sui passeggini che dovrebbero stare sopra i 50 cm da terra, sì. Come la mettiamo? Cioè, chi è che va poi a controllare? volevo continuare. Poi c'è l'ordinanza numero 7, sì. Questa è la 6. La 7 invece, che istituisce il divieto di circolazione una volta a settimana, l'abbiamo fatto domenica scorsa, è già prevista anche per domani, perché è una ordinanza temporanea. Quindi una cosa è l'ordinanza che si fa per 30 giorni consecutivi, un'altra sì. Quella è che una si fa per un solo giorno di circolazione. Quindi perciò sono distinte, sono due ordinanze distinte, perché la stessa ordinanza non poteva contenere Perfetto. Contemporaneamente due provvedimenti, che uno era a tempo e uno era così, anche perché uno è firma del sindaco, sì, sì. L'altro è firma del comandante di vabbè, adesso sì, vabbè, ma usciamo dai tecnicismi, che questo ci interessa fino a un certo punto. Tra l'altro mi faccia dire una cosa, perché non è che noi l'abbiamo chiamata per farle fare brutta figura, insomma io ho introdotto l'argomento dicendo cerchiamo di capire se siamo nel campo delle ordinanze a volte un po' creative dei sindaci, perché anche questo succede, oppure se siamo davvero a una nuova frontiera dei controlli sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini. Perché se un sindaco dice io non posso essere sicuro di abbassare le polveri sottili, vi avverto, state a casa, e questo può anche essere una cosa che ha una ratio in un comune che, questo lo voglio dire, in effetti stiamo nel triangolo proprio, è un po' difficile della zona, c'è il famoso inceneritore di Acerra, discariche abusive, i roghi tossici, lo ricordava lei. Voi in tutto questo siete comunque riusciti a fare qualcosa, nel 2014 avete avuto un premio da Lega Ambiente per la gestione dei rifiuti, quindi diamo atto al sindaco Lettieri che ci sta mettendo la faccia, ci sta provando. Però su questa ordinanza non si poteva fare di più per bloccare le auto prima di chiedere agli anziani e ai passeggini di stare a casa? Le dico di più, noi oltre a fare questo abbiamo anche messo un incentivo per l'acquisto delle bici, che è già una misura che abbiamo ripetuto per il secondo anno. Quindi praticamente tutti coloro che acquisteranno una bici ad Acerra avranno un incentivo pari al 50% del costo della bici per un massimo di 100 euro. Questo proprio per incentivare alla circolazione. Siamo in pianura ad Acerra, si va con la bicicletta, no? Questa è una buona notizia. Beh, questa è una notizia bellissima. Veniamo tutti ad Acerra a comprare la bicicletta, sindaco. So, dovete essere residenti e in regola con i tributi. Beh, allora. Certo, se no troppi vorrebbero fare i furbi. Pensavo però che bastasse comprarla lì e però poi promettere di andare in bicicletta fino alla propria residenza, quindi fare una Acerra a Milano in bicicletta, me lo fate lo sconto. Residenti e in regola con i contributi. Certo, però non deve risultare sì. Che avete mai avuto una multa per il dato conferimento dei rifiuti, perché noi controlliamo anche questo, e per questo siamo riusciti ad arrivare al 70% di raccolta differenziata. Però scusi, non mi sfugga dalla questione delle automobili, cioè le ripeto la domanda, non si poteva fare qualcosa di più sul taglio? Io capisco, l'auto è fondamentale per andare a lavoro, e diciamo, mi scusi il gioco di parole, il motore dello sviluppo in Italia, però prima di chiedere agli anziani e ai passeggini di stare a casa, forse si poteva, ripeto, fare qualcosa di più su quel fronte. Allora, noi abbiamo agito su diversi livelli. Su questo livello qua, le ho detto, abbiamo fatto l'isola pedonale domenica, la ripetiamo domenica domani. E oltretutto abbiamo comprato uno strumento che già è in uso da 4 giorni per controllare tutte le auto che entrano nel centro urbano se hanno la revisione motore e se hanno il collaudo e se hanno i tagliandi di assicurazione e quant'altro. Quindi stiamo agendo prima su questo livello dei controlli delle emissioni delle auto, per poi passare a una misura più drastica, che può essere quella delle targhe alterne o quello del divieto assoluto di circolazione. Quindi praticamente noi stiamo agendo su diversi livelli, così come per esempio per l'inceneritore abbiamo in atto, è arrivata l'altro giorno la carta dell'ARPAC, che praticamente hanno intensificato i controlli sulle emissioni dell'inceneritore, quindi sono più azioni tendenti a migliorare la qualità dell'aria nel nostro territorio, che sono separate tra di loro ma in un progetto organico che complessivamente farà migliorare la qualità dell'aria nel nostro territorio. E tengo a precisare una cosa, che solo nel 2014, grazie al nostro intervento, hanno attivato le centraline. Fino al 2014 quelle centraline erano spente, quindi ora sappiamo precisamente. Insomma, comunque non è un compito anche del sindaco del comune, che il sindaco che è responsabile anche per la salute dei cittadini, attivare queste cose. Lei lo dice come se fosse una cosa straordinaria, credo che sia un suo compito. No, le dico perché è straordinario, perché le centraline per la qualità dell'aria sono sotto il controllo dell'ARPAC, sì. Siccome devono controllare in un'area più vasta ci sono responsabilità, però lei è il sindaco, lei è il responsabile della salute dei cittadini, questo sì, quindi è giusto che abbia, come dire, smosso anche l'ARPAC su questo. questo? Assolutamente sì, assolutamente sì. E prenderò tutti i provvedimenti a seconda di come dell'andamento, del miglioramento, del peggioramento che ci sarà. Allo stato attuale ci risultano dei miglioramenti. Quindi speriamo, siamo con voi e con i cittadini di Acerra. Sicuramente in bocca al lupo a tutti. Come si chiamano? Gli Acerresi? No, Acerrani. Acerrani. Bocca al lupo a tutti gli Acerrani. Grazie sindaco Lettieri. Grazie a voi, grazie a tutti. Buona giornata, grazie. 800 24 00 24, che cosa ne pensate di una delle ordinanze di questa città? Avete sentito le parole del sindaco Lettieri? Ma devo chiederti una cosa anche, Ale. E poi anche cosa succede nelle vostre città, vai. Giusto, ma perché io non avendo figli, ma è difficile tenere un bambino sempre a 50 centimetri? Cioè, quello che non so è, i passeggini normali sono già a 50 centimetri o bisogna truccarli con delle ruote più alte? Adesso c'è tutta la nuova generazione di passeggini che sono più alti, fino a 4 metri. Fino a 4 metri, in modo che tu possa veramente passare sopra, esatto. Entri direttamente al primo piano delle abitazioni. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. Cari ascoltatori, questa mattina siamo partiti dal comune di Acerra, dove il sindaco ha emesso diverse ordinanze antismog, tra cui una che chiede agli anziani e ai bambini sui passeggini sotto 50 cm di altezza da terra di starsene a casa nei giorni in cui c'è una particolare concentrazione di polveri sottili nell'aria. Tra poco sentiremo anche gli inventori di High Solar Kit, un kit che consente alle automobili, una grande invenzione italiana dell'Università di Salerno, su cui stanno investendo anche i cinesi, di rendere l'automobile normale, quella a combustibile, così a benzina, eccetera, ibrida, energia elettrica e solare. E quindi una cosa che potrebbe rivoluzionare il mercato anche dell'auto, insomma. Soprattutto in Italia, adesso che inizia la primavera, esatto. E c'è il sole. E quindi ha maggior ragione. 800 24 00 24. Serena su Twitter ci scrive: per Tim Cook un suggerimento, potrebbe devolvere i suoi guadagni a Greenpeace e WWF impegnate per la salute del pianeta. Sentiamo Angela D'Alecco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io telefono anch'io per questo. Sì. Volevo solo dire che si potrebbero aiutare quei ragazzi down che vogliono andare a vivere da soli. Pur non, quelli che non sono gravi, naturalmente, che vogliono avere una loro intimità, una loro casa. E però quindi dare strumenti, degli aiuti, sì, degli aiuti, certo, perché non è che possono essere lasciati completamente da soli. Devono essere seguiti, sì. Penso che ci voglia anche dei finanziamenti. È vero. Questo è il mio. Bella la sua preoccupazione, loro, insomma, Angela, per questo. Sì, potrebbe essere un bel suggerimento a dare a Tim Cook, il numero uno della Apple, che vuol devolvere in beneficenza i suoi emolumenti. Grazie Angela. Grazie mille. Buona giornata, partecipa sicuramente alla vittoria finale del nostro premio virtuoso di oggi. Abbiamo un altro ascoltatore? Ce l'abbiamo, Silvana da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Per il lavoro che faccio, sarò breve, conosco molti personaggi pubblici come i sindaci, faccio il consulente aziendale e l'idea di quel sindaco di Acerra mi è piaciuta, però sono idee rarissime. No, l'idea che ho da tanto tempo è quello di dire: vuoi fare il sindaco? Bene, ti devi laureare da sindaco. Ma perché sei di quale idea? Mi scusi se la interrompo. Di quale idea parla? Del sindaco di Acerra? Quello che di Cinque Tante. Allora, il sindaco, prendo spunto dall'idea, sì, del sindaco di Acerra, perché i nostri sindaci, su 8.000 sindaci, pochi hanno le idee, purtroppo. Mi dispiace per loro, ma è la verità. Io non racconto storie, mm-hmm, conosco perfettamente. E allora, perché non proporre una bella laurea per sindaco, se vuoi diventare sindaco, e un diploma, in modo che, come nelle aziende, si gestisce gente che crea degli obiettivi? Cioè, io credo che sia, sento molte trasmissioni, specialmente vi seguo moltissimo, anche le 6 del mattino, che non dicono niente, che sono vuote. Idee intelligenti ce ne sono pochissime. Voi che siete in pole position, grazie, dovete, grazie, tirare fuori. Adesso la mia idea forse è quella di dare una laurea al sindaco. No, è interessante, sì, è interessante in realtà, anche perché va contro quello che si dice in continuazione, che non servono quelli che fanno la politica di professione. Quindi, bravo. In realtà lei sta dicendo un po' al contrario, lei dice: ma forse invece questa è una professione e servirebbe che questi fossero un po' più preparati, perché poi arrivano lì e non sono in grado di gestire. Si presentano in comune e la maggior parte di loro non sanno niente, non sanno gestire il personale, non, le logistiche, non sanno verificare se quel lavoro che è stato fatto è fatto bene. Sono prigionieri poi di chi? Silvano, lei che è un consulente aziendale, ci pensi lei? Provi a mettere su una scuola, un qualche cosa. Cito solo una cosa, poi la faccio finire. Noi abbiamo, visto che siamo in associazione con i comuni virtuosi, loro fanno due volte all'anno la scuola di altra amministrazione, dove la R è volutamente tra parentesi, di altra amministrazione, dove si passano tra sindaci proprio le loro esperienze, le loro buone pratiche. Ed è una scuola. Organizzare un'università per sindaci è una cosa semplicissima e banalissima. Perché io faccio parte anche del mondo editoriale, quindi è una cosa veramente semplice. Ma le chiedo una cosa: se uno fa il corso di laurea per sindaco e poi si laurea e poi non diventa sindaco e non trova lavoro, come è abbastanza facile in questo paese, che lavoro va a fare un mancato sindaco? Ma allora, un momento, la laurea per sindaco non è una cosa complicata, è una cosa che lui si fa 6 mesi prima di andare e va a fare mettiamola così, un corso di specializzazione post laurea in amministrazione. Pensavo una laurea brevissima in 6 mesi, al tutto esaurito di sicuro, lauree. Grazie Silvano, dobbiamo dare la linea al traffico. Grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, altre telefonate tra poco. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi parliamo di iSolar Kit, un'invenzione italiana dell'Università di Salerno. Strabiliante. I buchi neri sono sempre dietro l'angolo. Il tuo sedere è un panorama splendido, e quando passi canti guarda come dondolo. Faccio le rime anche se non ho fatto il classico, ho ancora dentro qualcosa di giurassico, come un istinto a sopravvivere a difendermi, come una musica punto ad espandermi. Partiamo, andiamo, è la chimica degli elementi, è la scienza bellezza, si procede per esperimenti. Questo è un grande giorno da vivere, giorno da vivere, senza limiti, senza fiato. È la scienza bellezza, dice Jovanotti in questa traccia. Le 30 tracce dell'ultimo lavoro di Jovanotti le stiamo saccheggiando tutte, ogni sabato e domenica, perché è pieno di spunti. È vero. È la scienza bellezza, ma è anche la tecnologia, quella inventata tra gli altri dal professor Gianfranco Rizzo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno. iSolar Kit, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Rizzo. Lei da quando ci ha scritto e da quando ci siamo informati sul vostro lavoro ci aveva molto incuriosito. Oggi ci sembrava l'occasione giusta, visto che si torna a parlare di limiti antismog, insomma di allarme smog nelle città, una soluzione tecnologica ci sarebbe. Ci descrive intanto questo kit da applicare alle automobili, come funziona per renderle, diciamo, energia elettrica e solare. Poi spieghiamo come e perché questa tecnologia convince anche gli investitori. L'idea è quella di abbreviare la transizione alla mobilità ibrida ed elettrica, che è una soluzione, però è una soluzione che si sta affermando con lentezza anche per la crisi economica, e quindi intervenire sulla flotta attuale, che è fatta per la stragrande maggioranza di veicoli a benzina, motore, diesel, certo. Esatto. L'idea è quella di mettere dei motori elettrici in pratica, di integrare dei motori elettrici nelle ruote, in particolare nelle ruote non collegate al motore, diciamo le ruote posteriori, anche perché è più semplice, perché non sono sterzanti. La maggior parte delle vetture, soprattutto quelle di piccola media cilindrata, sono vetture a trazione anteriore, quindi integrare dei motori elettrici nelle ruote posteriori, mettere una batteria addizionale che spingano anche loro assieme alla trazione anteriore, quindi che frenano e che quando frenano recuperano l'energia, tipo dinamo al contrario. Esatto, così la vettura è trasformata in una 4x4. A questo punto si può mettere anche un bel pannello fotovoltaico, di quelli flessibili ad alto rendimento. Dove? Sul tetto? Sul tetto l'abbiamo messo anche sul cofano, volendo si possono anche attrezzare parzialmente le superfici vetrate, le portiere. Pure i vetri? Le portiere. Volendo sì. Volendo anche i vetri? Sì, volendo sì. Ci sono delle tecnologie che... Si fa una serra a quel punto. Esteticamente io ho visto le foto, è migliorabile, diciamo, però questo è un punto, certo, se vogliamo, certo, anche un po' secondario, insomma, no? Assolutamente. Perché sì, diciamo, se ne frega cosa c'è sul tetto dell'auto, se uno risparmia, quanto si può risparmiare? Fino al 20%, 30%? Esatto, sì, perché diciamo che in una prima occhiata sembrerebbe che il contributo del pannello sia trascurabile, perché la potenza è dell'ordine dell'1% della potenza della vettura, però se parliamo in termini di energia, non di potenza, dato che la vettura non la usiamo sempre alla massima potenza, soltanto quando andiamo a correre alla 24 ore di Le Mans, così. Che non capita spesso, insomma, poi in dobbiamo vita buttare normale, la macchina, sì, tra l'altro. Quindi chi guida in città, e pare che siano un buon 50%, sì, usa la vettura circa un'ora al giorno, ha una potenza media dell'ordine di 7-8 kW, per cui sarebbero 7-8 kWh al giorno. Un pannello di potenza di picco di 300 watt in una giornata prende anche 2 kWh, che sono il 25% degli 8 kWh. Quindi dice, insomma, un quarto dei consumi si potrebbe fare con questi pannellini. Poi se ci mettiamo anche una ricarica elettrica, a quel punto siamo quasi al completo. Esatto. Complimenti. Questa tecnologia, tra l'altro, ha ricevuto degli interessamenti a livello anche di investimenti. Siete andati in Cina, avete trovato degli investitori, siete nel piano Horizon 2020. Sì, abbiamo superato la prima fase, che peraltro era la più complessa. L'ultima volta c'era un tasso di accettazione 1 su 25, quindi... È abbastanza selettiva. Quindi, insomma, c'è interesse attorno, certo, a questo. Le aziende italiane, le istituzioni italiane si sono fatte vive con voi? Allora, c'è un'ipotesi, ma più che un'ipotesi, di convergenza con l'Andi Renzo e con Actua, che è uno spin-off del Politecnico di Torino, che stanno sviluppando un progetto analogo. I nostri progetti sono complementari. Bene. E infatti abbiamo presentato insieme questa domanda su Horizon 2020 e c'è interesse anche da parte di altri investitori, mi scrivono molte persone, anche privati. Ecco, ma l'idea è che sia per i privati o che sia una casa produttrice di automobili? Che... L'uno e l'altro, ci può essere l'uno e l'altro. Quindi avrà un costo non esagerato. Esatto. Quanto può costare questo kit? Contiamo che possa arrivare tra i 2.500 e i 3.000 euro. È ancora un po' caruccio, però è migliorabile, perché sia le batterie che le ruote, i pannelli sono in un trend di riduzione di costi. Se ne producono sempre di più. Ma lo farete anche per i motorini? Scusi, io c'ho per un motorino. Per i motorini, ci vuole quei cappelli come usano i cinesi, attrezzato con pannello fotovoltaico. Sulla testa, qualche problema di stabilità. Un sombrero sarebbe perfetto. Esatto. Professor Rizzo, sembra che scherzi, Sornione, lo sentite così di Salerno, però in realtà dice delle cose che stanno ben campate, non per aria ma per terra. Noi intanto la ringraziamo e insomma ci farà piacere se ci aggiornerà su iSolar Kit, come va. Grazie a voi. Tra l'altro chi è interessato può fare un bel investimento, perché dando una donazione sul nostro sito avrà uno sconto pari al doppio della donazione. Ah, fornita. Perfetto. Quindi qual è il sito, ce lo ricordi? Il sito, sì, solarkit.com. Perfetto, quindi potete andare a fare le donazioni e avrete uno sconto pari al doppio sul futuro kit da applicare all'auto. Grazie professor Rizzo. Grazie mille. A voi, grazie. Buona giornata. Allora, bellissima questa invenzione, una tecnologia tra l'altro anche relativamente semplice, che insomma un tempo si mettevano gli impianti a gas, ti ricordi, nell'auto, adesso si potrebbe mettere l'impianto fotovoltaico. Certo, devo comprarmi un casco a forma di sombrero, ma lo farò. Bella questa. Allora, c'è Tonio Monda che scrive: Tim Cook potrebbe su Twitter devolvere a favore alla lotta al bullismo i suoi emolumenti. Poi si è corretto e dice a favore della lotta al bullismo. Ecco, perché pensavo che fosse favorevole al bullismo. Quindi i vostri suggerimenti su come far spendere i soldi in beneficenza al numero uno della Apple, all'800240024, anche oggi un premio virtuoso. Dobbiamo chiudere, vero? Però vi annuncio che abbiamo il presidente della Toscana Rossi tra poco alle 9:05, che ci racconta quale equilibrio è stato raggiunto per il piano paesaggistico della Toscana, atteso in Italia ma forse anche nel mondo. A tra poco. si può fare. Cronache da un paese migliore. Fuori tempo, quale tempo? Non ho tempo ancora. Fuori casa, quale casa? È la mia casa. Fuori corso, fuori luogo, fuori dal comune. Esiliato e camminare. Solo un padre. Cosa resta, cosa sento, cose da rifare. Cosa resta della luce, solo il buio. Ci sarà l'estate, che non tarderà di qua. Non ritarderà, non ritarderà ancora. No, non ritarderà, e se ritarderà, no, che non ritarderanno i giorni. Questa è Si può fare, questa che avete appena ascoltato è Il geometra Mangoni, che è una canzone scritta apposta per noi dal nostro ascoltatore Maurizio Mangoni. È il suo personale Si può fare in musica, che parla di speranza nella vita quotidiana. Ricordiamo che noi stiamo cercando, cerchiamo sempre dei Si può fare in musica, e ci potete segnalare le vostre canzoni, che possono essere canzoni famose, famosissime o anche sconosciute, o anche come prodotte in questo caso di oggi, esatto, prodotte da voi, scritte da voi, se siete dei musicisti, dei parolieri, qualunque cosa. Ce le potete segnalare, esatto, sul nostro, sui nostri account social, quindi sul nostro, sulla nostra pagina di Facebook, che è Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter, che è Si può fare 24. Scusate, chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, questa mattina siamo partiti dall'ordinanza antismog del comune di Acerra, che insomma sì, qualche domenica senza auto la fa, però intanto chiede agli anziani e ai bimbi sui passeggini di starsene a casa nei momenti di concentrazione maggiore delle polveri sottili. Ci siamo chiesti se questo è un giusto modo di affrontare la questione dello smog nelle nostre città, questione che ritorna in questi giorni per via del tempo, manca il vento e quindi evidentemente le polveri sottili imperversano in varie città, targhe alterne eccetera. Questo avviene ad Acerra, ne abbiamo parlato in apertura, abbiamo sentito anche l'ideatore di iSolar Kit, un kit per rendere le auto a energia elettrica e solare, un'invenzione dell'Università di Salerno, molto molto molto interessante, con dei simpatici pannelli e da non si sa applicare. Ancora, esatto, se si può fare anche in motorino. E poi, come tutti i sabati, abbiamo il nostro gioco. Il gioco, la notizia che abbiamo dato di questa settimana è Tim Cook, il numero uno di Apple, che ha deciso di donare il suo intero patrimonio in beneficenza. E quindi noi chiediamo a voi ascoltatori di chiamarci per dare dei consigli a Tim Cook su come investire, non investire, su come destinare il suo denaro, se in avete delle idee in beneficenza, anche perché lui di soldi ne ha abbastanza. Parecchi. Per esempio Kim Jong-un su Twitter, che è tornato, ci scrive: per legge nessuno dovrebbe lasciare nulla in eredità alla famiglia, così si darebbero, tutti si darebbero di più da fare. Redistribuzione del reddito, giusto? Beh, giusto, sì, giusto. Per spingere anche le nuove generazioni, anche dove ci sono patrimoni accumulati, a darsi da fare, appunto. Non so se questo sia anche l'intento di Tim Cook, probabilmente sono molto a favore. È un concetto piuttosto marxista, così lo dico nel caso che qualcuno volesse chiamarci per dirci cosa ne pensa. 800 24 00 24, abbiamo qualcuno in onda? Sì, abbiamo Canio, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi collego all'intervento della signora di prima, che parlava dell'autonomia abitativa delle persone down. È il primo suggerimento che è arrivato oggi per Tim Cook. Certo, per Tim Cook. Ecco, no, per dire che io sono, oltre che genitore di una persona down di 23 anni, il presidente di una fondazione di Milano che ha nello scopo sociale proprio quello di creare una struttura per l'autonomia abitativa di queste persone, che sicuramente, se pedagogicamente seguite, ce la possono fare. Quindi quello che diceva la signora è molto giusto, insomma è corretto, ci si sta lavorando, però servono fondi, certamente. Esatto. Lei sperava che noi avessimo Tim Cook qua in studio con noi, giustamente ha sentito la notizia e ha detto: aspetta che chiamo e mollo giù il mio IBAN. Esatto. Giusto, ha fatto molto bene. Però se vuole lasciare riferimenti comunque, anche magari se non ci sta ascoltando, non credo Tim Cook, qualcun altro forse sì. No. oppure sapere come agganciarsi a questa sua, sì? Cioè come si fa per candidarsi ai a ricevere quei fondi. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Forse si può scrivere una lettera, che ne so, alla Apple, a Tim Cook. Lui insomma, lavora lì a Cupertino. Una lettera, è bello che tu parli di Apple, una lettera, almeno una mail. Almeno una mail, così una per mail. Dire, non dico un SMS o un messaggino WhatsApp, su WhatsApp. No, però WhatsApp no, perché è del concorrente. Perché degli altri, sì, sì. Però insomma, no, scriviamo una bella lettera con la penna, direi, chiamavo, e l'inchiostro. Chiamavo anche per dire che è una realtà. La nostra fondazione, sì, che opera sul territorio. Come di si chiama la fondazione? La fondazione si chiama Condivivere. Benissimo. Grazie mille, grazie Canio, mille. Siamo per avercelo ricordato. Giustamente, sì, l'altra ascoltatrice proponeva questa idea, ma non lavorava nel settore, se non ho capito male. Quindi è molto bello che invece chiami qualcuno che lavora nel settore e ci ricordi che questo progetto si sta cercando di realizzarlo, ovvero l'indipendenza delle persone down. Walter dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Walter? Ah, molto semplice, c'è un qualcosa che sarà una novità di questo comune, tanto non ci sente nessuno, posso dire anche il nome? Come nessuno? No? Speriamo che qualcuno ci sente, in che senso non ci sente nessuno? Non è mica una telefonata privata? Ha fatto un numero a caso, siamo in radio. Dai, va che scherzava il signor Walter. Quale comune? Cosa è successo? Sapere, il nostro sindaco, insediato 2 anni fa, a un certo punto non ci riceve. Dove però? Scusi, dove? Il comune? Lui ha eliminato. Come si chiama il nome del comune? Come si chiama? Walter. Walter, come si chiama il comune? Serra Mazzoni, provincia di Modena. Perché ride? Perché a questo punto è una denuncia precisa. Cioè, quindi il sindaco di Serra Mazzoni non vi riceve. E noi cosa possiamo fare, Walter? Prego. Cosa possiamo fare noi? Lo stiamo già facendo, no? Lo diciamo. Certo, ha ragione, giusto. Diamo voce alla sua denuncia. Ma come mai non vi riceve? Nel senso che voi avete chiesto di poter parlare con lui? Ma poi voi chi? Non riceveva me, perché sono rompiscatole, ho 8 anni. Ecco. Si autodenunci. Lei è rompiscatole, il sindaco. Quando ho sentito in giro, sì, che non riceve Urbi ed Orbi, allora dico, ma Dio Bonino, adesso devo mettere il manifesto, no? Perché costa. E ma lei cosa ha pensato di telefonare, no, molto giusto. Però cosa gli vuol dire al sindaco? Scusi, cosa gli direbbe? Lo dica a noi quello che vorrebbe dire al sindaco. No, molto semplicemente, che vorremmo conoscerlo, che... Se non andiamo noi da lui, facciamo come Maometto, lui venga da noi. Ma scusi, ma il sindaco non va nemmeno al bar a prendere il caffè, Walter? Il sindaco? Ma non sì, perché allora? Che non diciamo mai noi in questo paese. Intanto c'è l'aria buona, si muore a 100 anni, eccetera. Momento proloco di Walter per Serra Mazzoni. Ma l'avete votato voi questo sindaco o ve l'hanno imposto? No, assolutamente. Qui è uno di quei paesi che ognuno... fa quello che può, ma anche quello che gli pare, assolutamente. Come sempre, Walter. Come sempre, Walter. In bocca al lupo, col sindaco di Serra Mazzoni. Grazie. Se vuol chiamarci il sindaco per rispondere, per darci la sua versione oppure dei fatti, potete incontrarvi in piazza, che va bene uguale. Va bene anche questo, andrebbe bene anche questo. Traffico, torniamo tra un attimo. Like an adamant Flat Flowers dei Talking Heads per dare il buongiorno e il benvenuto al presidente della regione toscana Enrico Rossi. Buongiorno. Buongiorno. Buon sabato, fresco di approvazione. Intanto ci dia la notizia di questo attesissimo piano paesaggistico. Attesissimo, sì, perché insomma è, la Toscana. È un parto lungo. Un parto lungo, anche difficile, ma insomma tutto è bene perché finisce bene. Quindi il anche voto con c'è una stato. Maggioranza molto ampia. Ah. Quindi. Ok, quindi avete votato ieri sera il piano paesaggistico con quanti voti? Diciamo anche questo. 32 voti a favore e 15 contrari. Abbiamo allargato la maggioranza. Ah, quindi nonostante le polemiche. Maggioranza del Partito Democratico, SEL e chi è entrato? Poi è entrato anche il gruppo Rifondazione Comunisti Italiani, sono stati due, più sostanzialmente una civica di centro ormai, ex. Sì. Ex centro, insomma, quindi ci siamo anche allargati. Ex centro ormai non si sa più neanche come. Vabbè, ormai il centro no, l'NCD c'è. Diciamo, siamo partiti che era centro, adesso centro è rimasto. Ma cos'è l'NCD? No. Sì, era no, non è NCD, era UDC, che un pezzo dell'UDC ci ha votato, ci ha fatto anche molto piacere, qualche intervento anche di un ex rappresentante della Lega. Positivo, quindi insomma, va bene. Allora, dibattito, diciamo ovviamente anche polemiche, ma, sì, ma questo, i giornali ne hanno parlato molto di questo. Faccio solo una piccola premessa: era atteso questo piano paesaggistico della Toscana perché insomma, la Toscana, il paesaggio in Toscana va da sé, in Italia, ma nel mondo c'è attenzione, interesse quindi per mantenere, preservare, valorizzare, ma anche nel rispetto delle attività economiche, per esempio lungo la costa. Quindi, diciamo, pensiamo agli stabilimenti. Balneari e la famosa questione delle cave di marmo su cui si è molto discusso. Quindi, cioè, inizialmente il piano paesaggistico che avevate messo allo studio, cioè predisposto, veniva indicato quasi come un punto, come dire, di avanguardistico, di equilibrio tra tutela del paesaggio e attività produttive. Questo equilibrio, adesso ci sono state delle modifiche, delle polemiche, eccetera, eccetera. Lei è soddisfatto? Avete raggiunto, secondo lei, un equilibrio di questo tipo? Ma io penso proprio di sì, e oltretutto dobbiamo anche, come sta, avere l'intesa da parte del Ministero. Io mi sono stato 4 giorni a Roma a discutere con il Ministero come è giusto fare in base al codice del paesaggio, poi abbiamo avuto delle discussioni anche nella maggioranza e abbiamo fatto un maxi emendamento. Il piano, così funziona la democrazia, e quando si tocca questi tasti è frutto ovviamente di discussioni, di mediazioni, di polemiche, però poi insomma il punto d'equilibrio l'abbiamo trovato. Sulle cave, diciamo, noi abbiamo stabilito che sopra 1200 metri non lasciamo più nuove autorizzazioni, e questo è lo scopo di conservare il profilo, le vette, i crinali, come si dice, lo skyline delle Apuane. Quindi sopra i 1200 metri non ci saranno per niente cave o possibilità di qualche cava? Ci spieghi meglio, perché anche questo è un punto, no? Anche questo. Allora, noi abbiamo detto che laddove ci sono comunità locali, come ad esempio Vinciano, ma anche le Vignane in comune di Staccema, che vivono della cava, anche se sono sopra 1200 metri, possono andare avanti. Sì, perché, come dire, l'abbandono della montagna da parte delle popolazioni provocherebbe uno fatto negativo ambientale, che poi sarebbe alla fine anch'esso negativo. Quindi ad eccezione di questi casi qua, forse due soli casi, il resto sopra i 1200 stop alle cave. Sono due casi, ma riguardano più cave. Poi abbiamo dato la possibilità di riaprire sulla base di un progetto finalizzato al recupero paesaggistico. Quindi il punto cruciale è il recupero paesaggistico, che però, come è noto, va a finire, perché insomma, dopo finito il recupero, 6 anni, poi la cava si chiude. Quindi con gradualità, perché non siamo certo appunto quelli che vogliono spaccare tutto, ma con gradualità sopra 1200 metri la situazione Avete avuto le presidi, manifestazioni dei cavatori anche nelle ultime ore? Sì, ma insomma sì, ma è tutto sommato. Però ecco, mi faccia dire solo una cosa, Rossi, poi le faccio dire il suo punto naturalmente. Perché sulle cave è giusto che gli ascoltatori abbiano anche delle notizie, delle informazioni. Sì. Allora, intanto mi conferma che c'è stata la legge recentemente, quella sulle concessioni? quella è una cosa. Noi abbiamo fatto una legge sulle concessioni che rovescia il punto di vista. Qualcuno ha parlato di esproprio, voi avete detto abbiamo tolto un anacronismo storico, le cave in mano ai privati. Ma guardi, ragazzi, ci vorrebbe molto tempo. Diciamo così, che la gran parte delle cave stanno sopra Carrara, sotto 1200 metri. Sì. Diciamo che queste producono, insieme a quelle di Massa, qualcosa come il 90% del lapideo che si produce in tutto il distretto. E poi viene esportato e spesso anche lavorato all'estero, e questo è un altro punto debole. Esportato, spesso lavorato. Avevamo una polemica da anni, trascinava, circa il fatto che una parte di queste cave erano state date in concessione, in possesso si dice, ma non in proprietà, nel 1750 da parte di Maria Teresa d'Austria, la duchessa, un editto ad alcune persone che insomma dovevano coltivare queste cave. Antistorico è stato detto, insomma. Sì, questa cosa l'avete rovesciata e superata. Sì. Noi abbiamo provato a rovesciare questo, ma soprattutto noi siamo interessati a una cosa, a proporre un patto con le imprese che scavano per lavorare di più il marmo sul posto, e abbiamo aperto anche con questa legge una grande discussione. Sì. Perché scusi, cioè, mi faccia dire anche qui un'informazione, scusi se la interrompo, però è giusto, perché molte di queste di questo marmo viene esportato, se ne va, e non resta molto, non sono molti i lavoratori nelle case, sono molto diminuiti negli ultimi anni, quindi è un'attività. Sono molto diminuiti, sono ancora tanti, sono davvero tanti. Cioè, è un distretto che va anche bene, insomma, cresce, fa utile. Però bisogna tutelarlo, lei dice. Però, il patto che avete proposto è quello che prevede la durata della concessione allungata se si lavora il marmo a Carrara, è così? Perfetto, le dice bene e le dice anche in un tempo rapido, è così. Cioè, noi proponiamo alle imprese del marmo di allungare le concessioni purché si lavori quanto più possibile marmo a Carrara, come dire, si aggiunga valore sull'estratto. Ora, questo dovrebbe tendenzialmente anche ridurre il quantitativo scavato, perché se lei fa un prodotto di qualità, insomma, noi vorremmo il che loco, il marmo... certo, si fa meno esportazione in massa così di marmo che poi chissà dove va. E insomma, va a finire, si dice anche qualcuno vuole realizzarci gli stadi. Ora io non so se è così, ma insomma, è un po' una follia, di Carrara forse. È pregiato, bisogna certo scavarlo perché è una ricchezza di tutti, va ridistribuita pure anche sul territorio, però insomma qualche regola bisogna introdurla. Noi siamo convinti che le cave appartengano al paesaggio, ma il mercato da un lato e anche le nuove tecnologie hanno prodotto un impatto così pesante sulla montagna, che se passa anche dall'autostrada può vedere, che se non interveniamo alla lunga rischiamo davvero di vedere così alterati gli equilibri. Senta, la stessa prospettiva delle scavazioni rischia di andare. Certo, quindi torniamo al punto dell'equilibrio tra tutela del paesaggio e sviluppo delle attività produttive. Altro punto, oltre a quello delle cave, era quello delle coste. Il fatto inizialmente previsto nel piano paesaggistico di non prevedere zero cemento lungo le coste, devo dire, io sono anche di quelle zone già abbastanza trafficate, mettiamola così, dal punto di vista del cemento. E quindi, e invece il punto raggiunto prevede la possibilità, se abbiamo capito bene, di ampliamenti per le strutture ricettive. È molto semplice, guardi, me lo posso dire rapidamente. Allora, per quanto riguarda le spiagge, le dune, cioè laddove c'è spiaggia si deve mantenere tutto intero, salvo poter mettere strutture mobili, le cabine, gli ombrelloni, quant'altro. Stando bene gli accessi alle spiagge, stando ben attenti a non impermeabilizzare il terreno e poi a rimuovere le strutture. Quindi solo strutture mobili possono essere utilizzate per ampliare e qui migliorare. C'è il punto controverso delle piscine. Io credo che abbiamo fatto bene a dire di no. La spiaggia della Toscana non è la spiaggia romagnola. Quindi no piscine nuove sul litorale toscano, diciamo. No, abbiamo già un bel mare pulito con tante bandiere blu e quindi è inutile andare a gettare cemento. Bene. Questa è una scelta e insomma poi insomma, la gente giudica, no? I cittadini giudicano, però si tratta anche di metterci la faccia. È una scelta che io credo alla lunga risulterà positiva per la Toscana, perché ha un profilo del tutto particolare, insomma. Quindi le strutture mobili sì, sulla spiaggia, per capirsi, insomma. Laddove invece ci sono già costruzioni, edificazioni, allora è possibile fare ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso per il miglioramento dell'offerta turistica. Ma ampliando le metrature anche? E abbiamo stabilito che è possibile ampliare fino al 10%, questo anche discutendone con il, quindi non, come vede, insomma, anche qui c'è un equilibrio, ecco. La spiaggia, per carità, tuteliamola, evitiamo anche di costruire le piscine perché c'è il nostro bel mare ed è bene fare il bagno in mare. Però se un ristorante vuole crearsi un servizio in più lo può fare. Questo è il concetto sul 10%. Sì. Poi insomma anche lì 10% ognuno a chi toccherà poi ai comuni. È un esercizio, no? Vedere il 10% punto per toccherà ai comuni. Naturalmente vedere. La discussione in una regione come la nostra è stata, ma chi ha più metri quadri allora prende di più, vabbè, questo insomma capita sempre. Ma ecco, ma a questo punto, Rossi, lei si sentirebbe di dire che la Toscana, dopo questo lungo travagliato parto del piano paesaggistico, è, come dire, un punto d'avanguardia in Italia e forse nel mondo nel salvaguardia del paesaggio, ma in equilibrio con le attività produttive, quello che era stato detto inizialmente anche da intellettuali, ambientalisti eccetera, e che io si era perso nel percorso, oppure no? Credo di sì, io penso di sì, anche perché insomma oltre alla, c'è anche tutto il territorio agricolo, noi abbiamo fatto anche una legge a 65 che prevede che si tuteli il territorio agricolo, che si diminuisca il consumo di suolo, abbiamo stabilito che intorno all'abitato si facciano dei margini, degli argini, un perimetro per poter poi fare le attività di edificazione, di rigenerazione all'interno dell'urbanizzato. Insomma, mi pare che abbiamo lavorato per mettere. Poi guardi, l'ha detto lei all'inizio, insomma, noi scommettiamo molto sul paesaggio ed è giusto che questo paesaggio persino idealizzato per tanti aspetti, insomma, ridia qualcosa in termini anche di mantenimento della bellezza. Ci piace dirla così, il paesaggio è frutto del lavoro dell'uomo, quindi dobbiamo ancora consentire le trasformazioni che sono legate ai cambiamenti economici e sociali di ogni natura, che avvengono, che sono avvenuti e che avverranno ancora, ma dentro queste trasformazioni dobbiamo riuscire a mantenere la bellezza del paesaggio. Senta, toscano quanto più possibile. Due cose flash in chiusura, una ce la chiede un ascoltatore e ci ricorda che le cave sono quasi tutte sotto i 1200 metri, quindi appunto, implicito appunto. Aver stoppato quelle sopra i 1200 metri, come dire non aver fatto nulla, cosa risponde? Ma ora, tra chi voleva che le cave si chiudessero tutte, chi cerca delle soluzioni, intanto abbiamo introdotto anche per quelle sotto 1200 metri che i bacini presentino un piano attuativo. Chi conosce la situazione sa che il piano attuativo è come dire cerchiamo all'interno di un'estensione di campi di costruire le infrastrutture, di avere una zona dove si fanno i depositi, un programma di coltivazione, cosa che finora non c'è stata. Okay. Abbiamo introdotto la commissione di valutazione del paesaggio e quindi dovremo cominciare a capire un come filtro in più per autorizzare queste concessioni. Un'altra cosa, mi scusi, perché poi sono molti tecnicismi, avremo tempo sulla stampa anche di approfondirlo. L'altra cosa che le voglio chiedere, aumenteranno gli introiti per le comunità locali, per il comune di Carrara, per esempio, con questa nostra concessione? Abbiamo stabilito che ci sia un'equiparazione tra tutte le coltivazioni di cava, che aumenterà per circa 4 milioni su qualcosa come 18 milioni complessivamente, sì. Quindi un 25% in più di ricavi per il comune di Carrara, dove stanno le cave, con Carrara questo sistema delle concessioni e anche gli altri comuni dove stanno le cave. Carrara sono 3.000. Grazie mille Presidente Rossi, grazie, è una materia complessa, ma insomma ci abbiamo provato, era importante raccontarla questa storia qua, perché insomma, 3 anni di parto per questo molto piano paesaggistico era così complessa che infatti, come vedi, non ho disturbato con io domande io mi ero documentato moltissimo, ho sudato, ho studiato la notte per fare le domande giuste. Sei meritato l'intervista. Cari ascoltatori, se volete intervenire anche su questo, se ne sapete qualcosa di più, se siete toscani, se non lo siete, 800 24 00 24, tra un attimo. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buon sabato. Di ritorno dall'intervista con il presidente della Toscana Rossi sul piano del paesaggio, una sudata intervista su un tema complesso ma importante, credo, per tutti. 800 24 00 24. Ha anche appena twittato il governatore Rossi. Cosa dice? Ringrazia. E dice che abbiamo parlato del piano del paesaggio. Beh, approvato ieri, quindi era giusto, insomma, esserci sulla notizia oggi. Enrico da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ecco, potessi parlare con Tim Cook magari. Mi suggerirei di investire tutti i suoi capitali in un grandissimo progetto, ecco, per portare l'acqua laddove manca. Sì. Questa sarebbe una cosa fantastica. Il tema dell'acqua, quindi investire, diciamo, con ONG, associazioni, ma anche forse con imprese, aziende che devono fare questo per gli stati, insomma, per i paesi che ne hanno bisogno. Certo, investire in un mega progetto, una persona così con così tanti soldi, senz'altro sarebbe seguito da altri, anche perché insomma. Anche perché ho il sospetto che ce ne vogliano forse di più, nel senso che portare l'acqua in tutti i posti in cui l'acqua non c'è. Certo, però è un bellissimo progetto. Un cospicuo capitale, certo. Un cospicuo, uno poi come Cook, che credo che abbia sempre creduto nel futuro, perché l'acqua è il futuro, cioè il futuro. Certamente, certamente. Settimana scorsa c'è stata la giornata dell'acqua e ne abbiamo parlato con il libro di Laura Bettini. Grazie anche a questo ascoltatore che suggerisce a Tim Cook di devolvere, insomma, i suoi emolumenti in questa cosa qua. 800 24 00 24. Altri suggerimenti li aspettiamo, naturalmente. Certo. Adesso è il momento di Rossano Ercolino from Capannori. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. E faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Ciao Rossano, buon sabato. Rossano Ercolini. Buongiorno. Buona la rete radio. Zero rifiuti, grazie, buona radio, è bellissimo. Rossano, io quando ho visto questa notizia, naturalmente ho detto adesso sabato prossimo ne parliamo, perché l'Agenzia per la Sorveglianza Geologica degli Stati Uniti, credo qualcosa tipo il nostro Istituto Nazionale di Geo, come si chiama, fisica, eccetera, eccetera, ha fatto uno studio e ha detto che nelle fogne americane ci sono minerali, oro, argento, metalli rari come il palladio e il vanadio, tutta roba usata nella cosmesi, nell'elettronica, nei vestiti, cose che vanno a finire appunto nei rifiuti, che è esattamente quello che vai dicendo tu in giro da 20, 30, quanto tempo, Rossano? Ma devo dire che non conoscevo la notizia, mi sono appunto documentato e devo dire che lo stupore, anche per una persona come me che pure è preparata e promuove questa visione, si rimane sorpresi. Effettivamente ormai siamo di fronte ai giacimenti urbani, questa notizia paradossale dimostra invece che concretamente le nostre società hanno bisogno di estrarre materiali dagli oggetti che non hanno più uso, certo, che è quello che appunto vai dicendo, io dicevo scherzando, ma è la verità da più di 30 anni forse. Rossano, tra l'altro, settimana scorsa abbiamo parlato dei cellulari, dei materiali che ci sono dentro cellulari, anche qua notizia di questa settimana, allarme perché mancano le materie prime per fare i cellulari, gli smartphone. Cioè l'oro di cui si parlava anche il tungsteno, non so esattamente, quindi anche lì si torna esattamente a quella necessità, ma siamo attrezzati per fare questa cosa. È abbastanza triste che debba essere un cittadino comune come me, un attivista, a dover segnalare al mondo delle imprese, al mondo politico in primo luogo, la necessità di metterci in sintonia con i tempi che stiamo vivendo, con la contemporaneità. Oggigiorno, non solo per ragioni ecologiche, ma soprattutto per ragioni economiche, abbiamo bisogno, come il pane, di estrarre rifiuti, di estrarre materiali dai nostri rifiuti. Continuare a bruciarli, continuare a metterli in discarica è una sciocchezza, io esagererò un pochino ma devo enfatizzare, è un crimine economico, oltre che esporre ad un impatto sanitario ed ambientale le comunità, certo, le popolazioni, il nostro territorio. Quindi davvero oggi dobbiamo far tesoro, le classi dirigenti devono bruciare le tappe per estrarre materie. Cioè bruciare le tappe anziché bruciare rifiuti, mi sembra splendido. Siccome questa rubrica si chiama Dove lo lo butto, c'era una curiosità che riguarda le quando vai dal, insomma, in lavanderia, Carlo, anche a te capiterà di portare, certo, la lavanderia, mi capita, te la ridanno su questa appendino, la gruccia di metallo. Io personalmente non so mai cosa farmene di questa, o le riporti in lavanderia, ma io le uso, oppure le uso i vestiti, però se io ho già camicie, le mie di appendini, quelli di legno. Ah, tu hai quelli belli. Io solo quelle ho, quelle della lavanderia. Non, vabbè, so, ma dove tu, si non buttano? So tu, Rossano, che ne fai di questi appendini, dove si buttano in casa? Sì, infatti, se voi incuriosite sempre, devo dire che anch'io, che dovrei rientrare nella categoria degli addetti ai lavori, rimango sorpreso dalle vostre domande. Abbiamo dubbi su tutto. E quindi rispondo pensando a quello che faccio io. Effettivamente, io tra l'altro, quando ero ragazzo, molti anni fa, io inchiodavo gli appendini quando erano di legno, li costruivo. Ah, li facevi proprio tu? C'avevi la mania già da ragazzo di fare... No, era proprio un lavoro a domicilio. Sì. Quando ero ragazzo, diciamo, nella fase dell'adolescenza. Ma te pensa dove... cosa scopriamo? Ma... Del, no, passato di Ercolini. No, ma non ho capito. Cosa vuol dire inchiodare? Inchiodare? Inchiodavo, perché quelli fatti in legno un tempo erano inchiodati con un chiodo. Ah, cioè li riparavi? Li riparavi in qualche modo? Sì. E quindi io, è un tema che mi ha molto incuriosito, quello che voi ponete. Fantastico. Per quanto riguarda gli appendini in metallo, anch'io li ricolloco o in lavanderia o soprattutto al mio villaggio della riparazione e riuso, soprattutto per la parte, diciamo, degli abiti usati, sono preziosissimi. Sì. Basta conoscere qualche operatore, credo, oltre che usarli nel proprio conto. Esistono poi però molti appendini plastici, e siccome questi appendini non sono considerati imballaggio, non possono essere conferiti in quello che chiamiamo il multimateriale, vale a dire la commistione tra plastiche, metalli. E dove lo butto allora? E di nuovo, quando c'è qualcosa di cui non si è certi, c'è l'isola ecologica. L'isola ecologica, si va lì e ti spiegano tutto. Bisogna fare questo sforzo, facciamolo, non c'è niente da fare. Dove ci sono, per esempio a Milano ce ne sono molti, io a casa mia ne ho una a 300 metri, meglio, dove non ci sono bisogna pedalare un po'. Grazie Rossano, buon viaggio, perché credo che tu sia in treno. Sono a Bergamo, sto rientrando verso casa, ho avuto una serata a Bergamo. Come sempre a diffondere il verbo, zero rifiuti. Ciao Rossano Ercolini, buon sabato. Ciao, grazie. Ciao. Mille. Ah, insomma, questa era la storia, questa era Rossano Ercolini e adesso... Posso dire che sono cambiati veramente i tempi, nel senso che un tempo addirittura esisteva il riparatore a domicilio di grucce in legno e oggi buttiamo via tutto. Invece dici, oh, mi si è rotta la gruccia, chiama un po' Ercolini che viene a ripararle. Altri tempi. Traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo insieme. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Abbiamo Giselda che ci chiama da Rimini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, sono Griselda e chiamo di provincia di Roma. Sì, su cosa voleva intervenire? Guarda, io ho pensato alla mia eredità personale. Cioè, una volta soddisfatti i miei bisogni personali, quelli dei figli, dare in eredità ai ragazzi, ai conservatori, perché possono dare delle borse di studio ai ragazzi che studiano la musica. Io sento che abbiamo tanto bisogno. La musica. Scusi, però voglio continuare. Sì. Voglio dire ancora un'altra cosa. Veloce, perché non abbiamo molto tempo, Giselda. Sì, guardi, c'è il Centro Studi Podresca in provincia di Udine, dove si fa una ricerca sulle abilità umane. Il direttore scientifico è Silvano Brunelli. Loro stanno proponendo una formazione per l'insegnante, per gli studenti, sulle abilità umane. Va bene, perché va bene. Grazie Giselda, manca. Non so se Tim Cook ci sta ascoltando. No, però è molto bello, perché in realtà noi chiediamo di dare dei consigli a Tim Cook dove destinare i propri soldi, invece questa signora giustamente parla dei propri soldi. Dice, io una volta dati i soldi per i figli, cose così, li darei a questi questo. Qua. È giusto. Ricerca tra sulla poco... musica e conservatore. Vi faremo sapere, insomma, giudizio insindacabile della redazione di Si può fare, chi si porta a casa il premio virtuoso di oggi per aver risposto alla nostra domanda. Adesso è un momento tutto da gustare, mettiamola così, arriva Giorgione, vai! Se tu vuoi essere felice, vieni con noi nel mondo di amici nella società dei magnaccioni. Non facciamo né sorrisi né canzoni. No, no, bucatini alla matriciana e poi spaghetti alla carbonara. E con la bacchia alla scottadito e se smuove l'appetito non andrà come Rusconi, pure se c'ha le televisioni. E neppure con Rutelli, che con noi siamo più belli. Una retta da Lema e Fini, orecchiette e tortellini. Hai provato la bagnata, se sapessi che magnata. Vabbè, questa super trash, pagliata rap. Fame, fame, fame, fame, fame, sono quasi famissima. Riesci. Buongiorno Giorgione. Buongiorno a voi. Il grandissimo. È piaciuto. Me. Grandissimo, però no chef, perché no, chef. Non scherziamo. No, non gli piace chef a Giorgione. Cuoca. Non lo so, non è la mia cultura, non è la mia tradizione. Io faccio l'oste e tutta un'altra cosa. Faccio l'oste. C'ha un programma strepitoso sul Gambero Rosso, a TV del Gambero Rosso, ha un ristorante dove, diciamolo, in provincia di Montefalco. Provincia di Perugia, credo. Sì. E insomma lui è uno di quelli che in cucina si esercitano, come dice lui, con dosi generose anche di ingredienti di quelli che normalmente adesso si sta sempre attenti a centellinare l'olio, quelle cose. Qua non tu vai a mangiare fuori, non a centellinare fuori, no? Bravo. Giusto. Quando ce l'ho, per dirla alla romana. Una volta ogni tanto, tu non te l'ha mica mai detto, no? Quella volta che uno mangia, mangia bene. Insomma. A Milano si sboconcella stringendo la carta di credito, dicendo oddio come andrà a finire. Non voglio chiedere a Giorgione cosa ne pensa degli aperitivi di Milano, perché credo si aprirebbe un capitolo. Lasciamo stare. Esatto. Sono d'accordo con lui. È ritornata la pagliata sulle tavole italiane perché l'Unione Europea ha riaperto cosa, Giorgione? Ha riaperto la possibilità di mangiare queste parti interne dell'animale, come il cervello, come i filoni, come la pagliata, che erano stati messi al bando per quella malattia che girava per un periodo, che cominciò dall'Irlanda e venne giù la cosiddetta bucca pazza. Come la vedi? Ma guarda, sono quelle cose che per me sono veramente inspiegabili, nel senso che sono anni e anni e anni che ormai si sa che questa cosa non aveva, se non altro aveva bisogno solo di controlli, quindi voglio dire, non lo so quale motivo alle spalle di questa storia ci sia. Grazie a Dio è ritornata, nel senso che i prodotti della cucina romana, io sono romano da 7 generazioni, di cui ne ho sempre fatto un vanto. Mi sembri molto soddisfatto, devo dire. È uno dei piatti, io non so se l'ho mai assaggiata. Ma c'ho Se fatta bene è una delle cose più buone che secondo me ci siano all'interno dell'animale. Perché devi pensare che è il digiuno, non è vero che è il latticello della bestia da latte. È una parte del digiuno, una parte del destino che secerne il chimo. Quindi tu hai solo delle parti precise dell'intestino dove c'è la parte buona. Il resto è quello che c'è dentro l'intestino, lo sappiamo tutti. Certo. Quindi, insomma, io non lo so cosa c'è dentro l'intestino. Immaginiamo. Scusa. Perché senti che Giorgione sembra che faccia le cose così facili, ma poi c'è anche tutto un retro gusto. È un oste studiato. E quindi, insomma, la pagliata la consigli. È un piatto, però, che è un gusto un po' forte. Adesso c'è, cioè, in un tuo ristorante la proponi. È delicatissima. Non è vero che ha un gusto forte, è delicatissima. Il problema è qui, sono gli equilibri della cucina, nel senso che era un piatto povero, un piatto di risulta, come si dice, no? Non è che la mangiavano perché si doveva fare un piatto di... Cioè, quello che avanzava, compreso dell'animale, eccetera, si buttava là dentro. Soprattutto chi viveva a Roma, a Testaccio, quindi il cosiddetto quinto quarto, erano tutto quello che avanzava con cui ci si pagava la macellazione. Quindi io ho fatto l'allevatore di bestiame, ti assicuro che è una delle parti più buone dell'animale. Ed è anche una delle parti più divertenti del tuo programma, scusami, quando vai a prendere le galline del tuo... Io vivo in campagna adesso, quindi vivere in campagna e non avere gli animali secondo me da stupidi proprio. Certo. C'hai l'orto, c'hai degli animali, vivi un attimino forse più decentemente degli altri. È come vivere in città senza avere internet, diciamo. Bravo, io sai, navigo poco perché non è che sono molto capace, ma ti dico che francamente anche in città potresti farti sul tuo terrazzo un bel oasi di 2 pomodorini e 4 peperoni. Ah beh, fino alla verdura io ci ho provato, pensavo stessi fatti, arrivando fino alle oche o una mucca, tipo le una oche mucca in terrazzo sarebbe straordinario. Diciamo solo una cosa, quando va in onda il programma, magari Giorgione manco se lo ricorda l'orario esatto, se lo ricordi? Il mio programma su Camero Rosso, guarda, sì. Le inedite le danno il venerdì alle 9:30. Ah. Adesso non me lo chiede perché fanno come gli pare, quindi non sì, vanno a rotazione, sono in replica. Grazie mille per essere stato con noi. Buon sabato. Siete sempre molto bravi. Grazie. No, detto la Giorgione, io mi inchino. Detto la Giorgione, io chiuderei qua. Chiudiamo qua perché sì, dobbiamo andare a mangiare. Diciamo anche chi ha vinto oggi: Enrico da Milano, che propone a Tim Cook di dare i suoi soldi in beneficenza a chi si occupa di portare l'acqua dove non c'è. E lui vince oggi il nostro premio virtuoso. Abbiamo già detto di cosa si tratta: sì. un cesto con dell'acqua. Naturalmente. Ottimo. Grazie, Andrea Piana, autore insieme a noi del programma. Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione. Carmelo Luciano in regia oggi. A domani. A domani. Da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Ciao.